per me. Poi giustamente tu mi dici, ma bisogna il motore, perché lui scrive così, chilometri, ok, revisioni, tagliandi, che su tutti i piazzi. Ma si va così, è come quando si comprava la macchina usata, è sempre andata bene, ti la sapevi, tu rendi a casa da burbassaggio. Cioè, purtroppo sono rischi quelli. Guarda, è successo a mio cugino. Il primo giorno che siamo usciti assieme, lui col canto arrivo da loro, siamo andati via Maricolino, parcheggiato quanto, spegne il motore lui per contrattare la piazzetta, la piazzola, tutto quanto. Doveva mettere in moto, non mette in moto. Cazzo, era disperato, ha detto no, cazzo, si è bloccato, come faccio? Ma aspetta un attimo, non sei calmo che sei in buone mani. Apri il cofano, dammi un martello. Lui fa, se rompremo voi, dammi un martello. Questo martello, ho tirato il colpo motorino e ha messo in moto subito, si è puntato praticamente, no? E vabbè, poi nel parcheggio ci facciamo i giorni che dovevamo farci. Quella della favola, il campo l'aveva comprato a Cagliari, quindi gli aveva dato tanto di garanzia, tutto quanto. Mi chiama, gli dice guarda così così, però il motorino mi ha lasciato a piedi, non mettiamo tutto più che il camper, ho dovuto pagare un carro attrezzo, mi ha fatto un sacco di scuse, no? Ma detto, lo so, però quelle lì sono usure, quindi purtroppo l'usura non comporta nella garanzia. Quello è il casino, è quello, perché è inutile appunto la bellezza di tutta della cellula, soprattutto che non ha infiltrazioni, soprattutto guardare la mobilia all'interno, no, tipo quello che ti ho mandato io, che è bellissima, per parere mio, è bellissima, è fatto bene dentro e anche fuori. Però la sostanza è nel motore alla fine, ok? È quello che dico io, uno va anche a rischio, non può andare lì e pretendere che li faccia 20 anni, perché non sai quanto l'ha usurato chi ce l'aveva prima. Secondo, questo è il mio parere, poi. Ma guarda, lo sto guardando anche adesso, non è male, non è male, è che, per dire, io vedo la mansarda troppo bassa, ma la gradini più alta, capito? Perché è lì che devi dormire, almeno che ci metti, ci sbatti ai tuoi figli o al tuo figlio e tu dormi nel letto in coda. Poi riesci a vedere cosa c'è, vediamo un attimino. Cosa dice? Bisogna altro. Un matrimonio alla mansarda, molto bello, un matrimonio alla mansarda è bello. Diritto e castello, buoni anche quelli. Non parla di cilindrata. Aspetta, la leggo. Ma io ho visto una descrizione veramente lunga, per quello te l'ho comunque girato anche a te, perché è una bella macchina, ecco, è una bella macchina, ha degli belli interni, perché secondo me sono bellissimi, eccetera, eccetera, capito? Una bella descrizione. E quando uno mette una descrizione così lunga, vuol dire che è la verità quello che scrive, non è che scrive una cosa, poi uno va a vederla e scopre il contrario, perché non può essere. Per me è una bella macchina, poi a quel prezzo per me è una bella macchina. No, Lu, allora a partire dall'anno che è del 1998, e quindi già una macchina vecchia, molto vecchia, a prescindere dai chilometri che ha, per quel prezzo lì, 165.000 chilometri, per quel prezzo lì se ne trovano molto molto meglio, per gli anni che ha questa macchina, non sto dicendo che è brutta, però per gli anni che ha, a quel prezzo lì a 17.000 euro se ne cercano i migliori. Io non guardo l'età, io guardo, per dire, i chilometri, perché se uno l'ha tenuta in garage, la usava a farsi un giro del quartiere una volta all'anno, se permetti, poi, per me è una bella macchina, poi se se ne trovano a metà prezzo così belle, mandamele. Guarda, la macchina lì è come che ha 9 anni, sempre girando ogni giorno, quindi per i chilometri che ha, però l'età è troppo avanzata, se tu guardi altre cose, in altre camere trovi pochi chilometri e pochi anni per quel prezzo lì. Secondo me è alto di prezzo, la macchina magari se li potrebbe anche valere, però per me no. Ho capito, devo tenermi in attenda. Ti conviene, per quel prezzo lì trovi di meglio volendo, non è che... Però ognuno, anche Lucchio con la sua parte. Allora per Lucchio trovami una macchina a metà prezzo, come dici tu, in quelle condizioni, capito? Se no io tengo la tenda, capito? Tengo anche il compressorino per gonfiare i materassini. Tieni il compressorino anche, guarda, ho trovato un altro, 14.000 euro, ancora molto meglio di quello che mi hai fatto vedere tu. È il prezzo del 91 addirittura, l'anno, 1991. Addirittura. Allora, ce n'è, se mi metto a guardare, 30.000 euro ti mazza, questo è bello, Certo! 30.000 euro, credo che sia sospiccioli per te, vabbè c'è un altro, qui, guarda, questo è bello, questo è, allora, vediamo un attimino, 15.000 euro, senti a me, allora, 7 posti letto, e già da qua ti deve scendere una pietra in testa e ti va a aprire il cane in due, 7 posti letto. Poi 7 viaggianti, perché molte volte hai 7 posti e 6 viaggianti, oppure 6 posti e 5 viaggianti, quindi 7 su 7, hai fatto già 14, per dirlo a te. Poi hai ruote posteriori gemellate, frigo attivamente, forno, illuminazione, strumento a LED, pannello solare, antenna TV, tipo qua, è un bel lungo, non te lo leggo, vediamo se c'è anno del 2002, cioè una macchina del 2002 e stai pagando 15.000 euro, ma se la vedi ti devo mandare, cioè se riesco ti mando la foto, ma la faccio qua la mandata? No, sul barattino non fa. No, è zitta, te devo mandare, perché tu sei fissato, vediamo attimo se riesco a mandartela. Ce n'è, guarda, non so quanti, a quante cose mi sono iscritto, per carità, che ti viene il nervoso, capito? Ascolta, ti ho fatto la fotografia del telefono, te l'ho mandata, perché tu mi hai detto, mi dici, ma cosa gli dite, guardatelo, se lo vedi, questo è bello, ma proprio bello, magari avere una cosa del genere. Vabbè, la mappa te ne è scesa. Aspetta, prendo la foto. Allora, tra. Sì. L'ho visto. Ma vedi anche qui la massata, non è che sia a letto a castello, Ma cosa si dice, ma tu, devo andare a prendere la Gabriele, secondo me. No, tu devi guardare le foto interne, che ha due reti a castello, che ha letto, è bello, per questa cifra lì, è molto migliore della, poi è una meccanica Ford Transit, cioè 130 cavalli. No, io sì, cavallo, però anche l'asinello non è che lo disdegno. Sì, ho capito. Ascolta, vabbè, non dico mai. Sì, ma domani, ma posso andare a mangiare? Se vuoi andare a mangiare, io no, adesso più tardi. Ma a dieta e oggi, quante mani ho acceso il fuoco? No, devo andare a prendere la Gabriele, poi mi stavo aggiustando la stufa, però tutta sigillata, l'ho aperta sulla fabbrico, prima di fare il danno. Non ho fatto il danno, poi sono andato a fabbrico, ho preso il silicone, quello da 1500 gradi, se non mi sbaglio. L'avevo preso anch'io. Quello che ho preso io era, se non sbaglio, nero. Cioè nero, rosso, poi dipende. Sì, quello nero. Quindi l'ho aperta, l'ho pulita tutta e diciamo che adesso domani se ce la faccio, domani sera. io il problema mio è un altro, che prima facevo, siliconavo e la piazzavo tutto assieme, adesso l'ho praticamente assemblata e devo mettere il tubo, però mettendo il tubo ho difficoltà perché è proprio preciso preciso il tubo, capito? Quindi vediamo domani come esce fuori la cosa. E in che senso hai difficoltà? Boh, non ho capito. Perché il tubo praticamente è come che stai mettendo due tubi, due cose fisse. La canafoia nel tetto è fissa, quindi deve entrare prima quella che ci va sopra la stufa, poi devi mettere la stufa sotto e abbassare il tubo per essere una cosa ben fatta. Però il tubo, anche se tu lo sali su, dopo che non scende, capito? Perché tocca già la stufa. Dovrei accorciare di un centimetro, il tubo che c'è murato nel muro. Sì, ho capito. Beh, lo accorci. Intanto che andava a fumare ne hai, cioè abbastanza lunga, no? Anche se entra 10 centimetri dal soffitto, dico. Ma è per quello, non lui. Il problema è un altro, è che questo è un tubo in acciaio che mi aveva dato tanti anni fa Antonio Pinguino, che lavorava nella disposizione delle stufe, nel ricambio, non è di quei tubi fini fini che tagli con la muletta. Questo ci vuole una mola grande e ti dà di mattare una mula a tagliarlo. Siccome è già sopra, è già piazzato, non puoi, cioè fai la cucina, la fai nera. Metterci un tubo più fino, scusa. Cos'è? Un 130, 140 quello che è fisso che ha nella canna fumaria? No, è un 125, però non fa metterlo più fino. Dovrei inclinare un po' la stufa e cercare di fare le cose così da solo, più male, capito? Ma guarda, per il tiraggio che hai tu puoi anche ridurre tranquillamente, fidati, perché io ho ridotto dal primo piano in una stufa a legna, dal primo piano di qua alla canna fumaria che mi risulta in soffitta a me, da 125 ho dovuto ridurre a 100 perché era un problema entrare in tutta la colonna fino al primo piano di quella del primo piano, perché si era rotta, era in eternit, ok? Sicché io cosa ho fatto? Ci ho entrato il tubo più fino, capito? Dal primo piano, Berommi, tu tiraggio praticamente non ne hai, nel senso che ti basta anche una riduzione a te di 100, che gioca dentro al tubo che hai della canna fumaria, non succede niente. Capito ti? Sì, ma io non voglio fare porcherie, nel senso che se il tubo c'ho da 125 e poi ne metto uno da 100 che balla un bel, non mi interessa, perché si vede, è brutto, capito? Dovrei fare mettergli una... C'è presente quei termosifoni che si mettono per scaldare ancora di più? Cos'è che si vede? Dalla stufa parte un tubo da 100, arriva al soffitto li mette il suo rosone classico che chiude il buco. Cos'è che, come ho fatto io a quella del primo piano, mica lo vede lì che poi va da 100, da 100 a 125, capito? Lei non vede niente, lei parte un tubo da 100 dritto, no? E gli ho messo il rosone, il tappo gli ho messo, non è porcheria, perché non vedi niente. Allora ti spiego, immaginati il mio soffitto, no? Inglobato nel cemento che entra dentro casa ci sono 50 centimetri di tubo da 125, ok? Quindi quello lì lo dovrei tagliare un centimetro perché è già murato tutto quanto e non posso tagliarlo, mi hai capito ora? Secondo me non c'è un sistema per tagliarlo. La mola è bassa perché è durissimo, credimi. L'ho fatto fuori e mi ha dato mattana. Una mola, si può immaginare. Non con la moletta, con la mola grande. Io a questo del primo piano ho fatto così. Poi le ho messo il tappo e laggiù non si vede niente. Capito? Fino a sopra al tetto. sono passato con un tubo più fino dentro la canna fumaria sua, che era di 125, fino a giù. Ti puoi immaginare cosa ha giù dopo tu fa? Sì, ho capito Luca, hai fatto un bel lavoro, ok, però io ho inglobato nel cemento, nella gettata del solaio, questo tubo che metà esce fuori e metà dentro casa, quindi 50 cm dentro casa e fai 30 cm fuori, dopo poi ci va altro tubo a sovrarasare. Io quello lì non lo posso né far scendere né far salire, hai capito? Sennò sarebbe stata una stupidaggine. Avrei cotto un paio di colpi, no, guarda, credimi, non fa neanche a salirlo. Nonostante tutto ci ho provato qualche anno fa. Ah, adesso ho capito. Sì. No, adesso ho capito, perché a te ti viene giù un bel pezzo di tubo dentro casa. E mettergli un tubo esterno? Cioè, per far figurare che tu sì, dalla stufa sei con un 100, per dire, dentro al tubo 125, no? Però esternamente fa risultare un 125. 125 su 125 non ci va. Vabbè, ma già risolvo, guarda, domani farò come tutte le altre volte, cercherò un panchino e forzerò un po' la stufa e il tanto di entrarla, capito? Perché tanto si tratta solo di un centimetro, quindi niente di che, solo che quando io metto l'altro tubo che scende giù verso la stufa, che è da un metro, mi tocca già il basamento della stufa, quindi con un palanchino dovrei alzare, poi creare la stufa per farla incassare, capito? Certo, un bel problema, cioè, sì. Un bel problema. Per forza tagliare devi, solo che fuori a mani, anticrosso il subinazzaggio. No, sai cos'è che... Allora, non è un taglio, è la taglia, se tu ti metti con la mola fai casino dentro casa, cazzo, poi lo sai il ferro, l'odore che lascia, non voglio rotolare male, la furigine, quello quell'altro. Sì, perché non ci vuole la moletta, ci vuole il gattuccio lì. Il gattuccio non fa scintille, certo che un pezzo di cera non costa niente metterlo quando si taglia, però non fa scintille, non fa niente. Però ti serve il gattuccio, quello lì. Tu se te lo usegare un attimo. Ho anche quello, non è proprio così, te lo usegare un attimo. Ho anche quello. Quello è l'unico per non fare casini, scintille e quant'altro, perché in conto la moletta, sì, la moletta fa scintille, fumo, polvere e tutto quanto, e il gattuccio no, non le fa tutte queste problematiche. Sto pensando a tagliare la seghetta, figurati, ci metto un po' di più però, non faccio casino. E capita il seghetto, se mi hai detto già vai boh giù con la mola, problemi, e col seghetto come ti vai? Non lo so, adesso a mari scrive tre merimiti, anche il cattuccio, c'ho anche quelli, poi c'è un sarago, una latta, non so, forse domani metto al forno. Vabbè, prima di metterli al forno usali per tagliare il tubo, comunque il gattuccio è l'unica lama che ti può tagliare senza fare polvere, senza far casini. Aspetta che qua partono scintille fra un po'. Ma perché devono partire scintille se il fuoco non è acceso? Allora mi hai detto le bugie. Perché la mamma fa sgridare il bambino. Aia, altro che barbecue. Ello, comunque tu, ma guarda che sto cercando quattro cerchi per la macchina mia della 17, se riesci a trovarle, abbiamo deciso di verniciare la macchina, quindi voglio mettere gomme più grandi e cerchi da 17. A diavoletto chi? Sì, lo sto facendo. Ce l'hai fuori strada Piero, te lo ricordo. No, ma non è... non ce l'ha più, e poi non va bene per la mia. Basta passare via Flavio Giulia. Tu dici devi andare in gara, ma che tizio di buci, ti dite. Ma mi sembra sono uguali ai tuoi, no? Quelli di... che ti ha fatto vedere. Allora aspetta, in Emilia Romagna però la ruota precisa identica alla mia, 1500 precisa. Giulia, raga bizzisti, per carità, si è venuto una lametta, chissà. Ma sei pronto? Per carità, si è venuto chita che sta a 54, mi dici? Sali a tagliato di pezzi, secondo me l'ha vista. Secondo me la vista è andata a chiedere con l'umino e l'ha posto un fuoco. Mi ha trovato 4 cesi belli dalla macchina, ma sono da 16, che ha messo con la 17. Porca miseria! 300 euro, potremmo anche prendere perché sono anche belli, ma sono da 16. Ma quelli che ci sono qua vicino, che ti ha fatto vedere, vanno bene? Sono identici alla mia, magari. È rientrato e a poco si intendi. Fuffia! Tino! Tino, mi senti? Allora, tu sei Santiago 9, Luca è Santiago 15 e non so perché, comunque, si è cambiato l'antenna, l'ha abbassata, l'ha tolta, non lo so. Santiago 15, no, 9-15. No, tu sei Santiago 9 e invece Luca è 9-15. E io sono qua, Pisa. Quanto sono? Ciao Comodo, 7 tu sei. Buonasera a tutti. Bobo, dov'è? Sei per il Rella. Di Fella del Biglia. Sei per il Rella, è entrato, Sto che è entrato. Buonasera. E mi invitava a scoprire. C'è nome qua. Bobo qua, mamma mia, è arrivato, sentiamo un offer. E come ti arrivo adesso, amico? Antonio Ferventino! 9.10, prova! Addirittura 9.10, solo! 9.20! Ah, pensavo! E con l'altro, aspetta! Antonio Ferventino! Prova con questa, è un casino! 9.10, quasi 15! Me ne rubo un po', Ma lascia questo! Perché? Non ti piace l'altro? Ma questo è molto superiore! Ma vabbè, questo è il cazzo! Lascia questo! Antonio Fermentino! Mi c'hai un casino! Tu lo usai! Aspetta un attimo, Antonio! Ehi, dimmi! Dammi un segnale con questo! Guarda un po'! Sei quasi 9.20, Radio 5! A voglia! Aspetta, con questo invece qualcosa in più o in meno? Ammazza, così aumenta tanto, sei 9.25. Non c'è qualcosa in più, Vabbè, io sono lontano da te. Ecco! Ehi! A te la rimmo? Io, il Fermentino di Monti, comparemmo. Ma ne hai? No, non ne ho più. Ma ho visto pure che non ha il Fermentino a 3 euro. Però non so di dove sia, sarà di Monti, boh. Però è di chi tu vendo tu dalla cantina, buono me, buono, e da voi vedi tu di sosso. Scusate ragazzi, ma devo uscire, dai, sentiamo dopo. Ehi, a tutti, a tu, chi c'è Zerriaga, Luigi Besciolino. Vanno a occupare giù la Zerriaga, saputo là che mostra la mamma. No, oggi li ho trovati alla Sigma comprando un bel latine di birra e il vino in cartone. Ah, care dai! Come sei Antonizzini? Compare c'è un bel di birra in latine e il vino in cartone. Oggi l'ho trovato alla Sigma, quello più grande, adesso non so come si chiama. Avanti lui. Oso Francesco, d'oro seduto si chiamava, una buccia. Ma mozzo, mia di passani, con chi su Garruzzo, non lo so. Non lo so. Ricordi quando c'eravamo al baracchino? Quanti anni fa? Un po' di anni fa. Edo si chiamava Francesco Toro Seduto. Edo era... Fogliadoro era la buonanima, era. E poi c'era Cipollina, la Zuretta. Graziano era a scuola con me, è stata a scuola con me, e ho conosciuto la sorella Rossana, e ma loro li vedo tutti i giorni, hanno, oggi c'era il fratello fuori, seduto con i due cani, perché ne hanno uno piccolino piccolino adesso, tutto imburigato, vira via, lo fradetto, e l'altro era dentro la Sigma, e ha comparato più birra e fino che altro, è un letto di mortadella. Davvero? E così mangiano, gare. No, non è Rossana, una è Silvana e l'altra è Teresa, le sorelle, e l'altra è Margherita. Io ho conosciuto Rossana, la piccola ho conosciuto e frequentavamo in Piazza d'Italia. Silvana, ecco, la sei gente. Chi è? Avanti. Ancora in giro siete? Sì, vabbè, buonasera. Oi ragazzi. Sì, miglia, e beh, tutto a buccio. Sì, tutto a posto, dai. Cappa, beh, ti arrivo adesso a casa tua, perché ho migliorato l'antenna. Dall'ultima volta che ci siamo sentiti ho messo tutto a posto. Ehi, Antonio, sì, Santiago 8. È meglio di prima, prima ero Zetti, sì, così è. Prima di sì. Eppure tu mi arrivi 9.15, roba così, non di più, Vaga. Con chi sei? Sempre sì. Cappa, sono con Luca. Luca Flipper e con Luca del Monte. Avanti Luca del Monte, Luca Flipper. Non lo senta Massimiliano? Ah, sì, io già lo sento, siccome ne ha rilanciato due. Lui è che non sente a me. E qua ti intendo. E a voglia che arrivi. Allora voglio fare una prova a casa tua, vedi? A fare una modifica, magari la radio lasciava perdere. Però voglio fare una prova a vedere quanto d'arrivo. Due minuti. E ci vedi? E faccio la prova io. Avanti Luca, Flipper. Ehi. Boh, non so, c'era anche Luca, lo so, come forse non vuole riprendere. Non lo so, non ho sentito Luca, ho sentito lui, ma sono entrato così a gamba tesa. Ciao, Falone! Ehi, Lugalie! No, non v'entrano. Se non vuoi Claudio, io non v'entro. Ma ora, vado a vedere, ma ci vediamo, come arrivo? Arrivi bene, senta la nuova. Ma non più di tanto, 6-8, staccato, 9 agganciato, quindi non conviene. Vabbè, in altri punti mi sento un po' più forte. Perché mi devo prendere l'alimentatore, paura che il non stia dando tutta la potenza. Va bene, la prova è stata fatta, se sono con l'altra radio. Ehi, andiamo. Mia Caterpillar, me. Vale. Ciao, anzi, Gianni sono. Ciao Gianni. Aiutami a dire perché sono la volta. Lupro. Ah, Gianni Ferrovia, sì. Ma che è Franco, Freccia Rossa. Ciao, buonasera e ben ascussolato. Ben ascussolato anche a te, sono entrato anch'io. Tipo Chuck Norris, non so che ci sia, comunque salutoni agli eventuali amici e niente, dai. Avanti a che tocca. Allora c'è Antonio Momolo, poi c'è Luca Flipper, Luca del Monte, io e le Rose. Cappa, secondo me l'Ubropeta ti arriva più forte di me, con la stessa antenna. Tu le puoi piazzare antenne più grandi lì, Antu? Sì. Adesso me va a contentare questa perché i soldi erano quelli. Sto aspettando Babbo che me la dia, che la ringo, perché se no mi avrei messo quella. Ho piazzato tutte le antenne che voglio qua. Cosa ringo, fate una gana a pesca da Luca, si appunto ci mette una 5 ottavi. Vabbè, se me la rigara cosa volta, tira rampo. Sì, vabbè, se ti la rigara la lasci lì da una parte, ovviamente. Cappa. adesso devo decidere cosa mettere. Ho fatto il travaglio, ho fatto. Ma è così, no. Devo decidere cosa metterci su. Adesso questa, come si dice, questa boomerang grande mi sta soddisfando abbastanza. Certo non è che è, però va bene, dai. Per adesso mi accontento di questo, poi dopo già la pongo più manna. Perché sono un pochettino, cioè se guardi bene il palazzo appena appena hanno infussato, perché sono stato più su e riuscito da bomba, è riuscito. E l'antenna basta abbassarla nella sua balanza e ti arrivo un poco di gavo in più, avanti, avanti flipper. Ma è agito, piazza nello grattacielo. Se si pone chissà nello grattacielo arriva a fondo scala quasi in tutto il giassare. Che ti costa, avanti già. Ciao Luca, buonasera, ben sentito. Forse non ci siamo sentiti ultimamente, comunque buonasera anche a te. Che dire? Io sono qua a zona stazione, come ti arrivo Luca? Guarda, adesso in questo momento sto usando un dipolo, sicché vai super bene, super bene. QTH approssimativo il tuo, giusto per avere un'idea. Prima delta, zona poste, capito, attaccata alle poste. Sicché Antonio gli dovresti spaccare queste ore, anche se a lui gli piace. Mazza che ne è varia. qua è il più forte che mi arriva, Qua il più forte è lui e Marco Condor, sono tutti a fondo scala qua. Con Antonio già siamo a portata ottica proprio. Come dice Striscia, vicini vicini, dai. Hai visto la salighi su Capitan Ventosa, cosa lì tu era sasse? Le tradizioni. Ma lui cosa vuoi che ne sappia? È una parola che riempie la bocca, capito? Già lo so cosa vedete, non lo sapeva. Ed se fosse così, ma non sappia nulla cosa era. Tanto chi se va a fianco di fava, un bel. Antonio Valentino! Sì, ciao, odore di fava, di brodo di fave. Sì, che schifo, Antonio, veramente. Noi all'Antonio ha ciambato illuminativo, mi massi. Davvero, come si chiama? Valentino. Davvero? Ah, cosa che... Dimmi la tu, lascia la voce, oh yeah, si è fatto pure un impulla di Vermentino nella del numero all'otto. Davvero? Quindi sei Antonio Vermentino adesso? Sì, barridì, era. No, stasera non ho bevuto niente. Luca, ci ricorda? Luca, ma di bocco? Cosa hai detto Luca di Oda? Luca, padre di famiglia. Me, oh yeah. Luca pare di poco! Luca di gommino! Vai Massimiliano, che tocca a te, vai! Comunque Antonio, ci sta bene me. Antonio Vermentino. Massimiliano! Qui c'hai un casino! È stato io Vermentino! Luca, ma dove sei? A Malai! Malai! Stai arrivando più di meno! Più di meno! Non sono più meglio! Non trovano mai più meglio di casa! Io sì! Più meglio, va bene! Vabbè! Meglio più del Vermentino! Ti piace la mala! Ti piace la gnocca! Vabbè, Massimiliano, ascolti, sì! Ehi, ti ascolto, voglio. Tu mi ascolti? Volta è chiasso. A proposito. Io gli ho accennato, abbiamo fatto le castagne, poi non si sbucciavano bene. Va, per carità. Io avrei un broffetto a burro. Ciao Gianni. Ciao Luca, buonasera. Gianni deve essere forte, ma la sua si fa sentire Gianni, Sì, profeta o prefetta? Prefetto, prefetto di Sassari. Pistino prefetto. Andiamo. Ma tu, va bene che arrivo così, guarda per vedere. Basta di varia. Lui sto provando quello a fare. Ammazza di varia, 9-10. S9? Però conta che non voglio un'antenna, Basta di varia. fatto. Lo senti a Massimiliano? Sì, a voi che lo sento. Quanto ho fatto, da te lui? Da me? Ehi, da te quanto ho fatto? Non lo fa di 5, non fa 10, sì. E da te lui? 9.40. Anda bene, aspetta. E no, che sei 9.20, sì. E da te un profe aumenta? Aspetta che ti sto attenuando appena appena. Se ti puoi immaginare. Fai un attimo, no, vabbè, lo smettere di che c'ho di questa radiolina e sembra che c'ha le strozzature come lo scooter, arriva a un certo punto e si blocca, capito? Quindi devo attenuarlo per avere per vedere un po' la differenza. Ah, va bene, mettilo un po' di CRC, che cosa? Siamo un po' si immagina, poi che poco se arriva adesso. Va bene, portate l'aumento un po'. Signori, là, chi ne sono? Ma su un po' di TV, toccate vorrei come le posso amare e se Dio vuole domani, ciao, buonanotte a tutti. Ci sentiamo le prossime, là. Ce la risentiamo alle prossimine. Alla prossima Nuova Sardegna. Ciao Gianni, Luca, Tino, Massimiliano, Claudio, Mimbari, vi aver sentito, insomma a tutti, da Antonio, ciao. Ciao ciao. Che c'è anche Claudio e Tino, no, io non li ho sentiti. No, poco fa c'erano. Ah, ok, andava. Ah, sei accoccata, che c'è ora? Adesso inizia signorini, fa un po'. Ma neanche provocando li entrano. Ma gli assolutivi lo venderà il cibucco. Vero, ma sono messo accoccati, accabato di vano. Ah, è montante. Ah, a te, bobo. Ah, io santo, non si cosa è cosa. Mi è maraduccato, il Santonio Vermentino. Tanto, ma lei sei passato da Michele stasera, no? Che mi ha detto che è passato Antonio, ha preso 3,5 litri di moscato e 7 di rosato. Non mi sei venuta? Ah, cosa? Ma non lo so io, non lo so. Vabbè. Comunque, visto che è una terrazza così grande in centro storico, quando fui organizziamo una bella arrostita. Io la terrazza, ma giù il cennaio, no, che cosa terrazza? A malapena. Deve aprire ogni tanto per farci uscire i fumi. Vabbè, c'è anche la finestra giù, è piccola a casa, dove vuoi andare? È una cosa più soddisfacente che una antenna sul tetto. Ma scusa, l'antenna dove l'hai messa? Non c'è la terrazza? Che cosa terrazza? Oggi ha messo il cernaio, oggi butta vora. Non deve andare a fare il condizionatore. Ah, io pensavo che c'avevi un terrazzino, bene o male, dove mettere un bracciere così, faccio una rossita, va. Sono rientrato, Buonasera, chi è? Gianfranco la scimmia. Ciao Gianfranco la scimmia, buonasera. Bello. Ascolta, ma tu ne porti, ne fai viaggi? A me sei di gente. Sì, ne fai viaggi tu. Ti di che cosa? Ma tu a chi scendi? Il tuo lavoro. Ah, ne faccio viaggi con le bombole. Sì, e portarmela qua a casa quanto mi costa la 15? Ma abiti lontano tu, quanto sei lontano? Lontano, uscita della Peolce sono. Ah, cappa, 33 viene da 15. 33 da 15? Cappa. Più 25 la porta alla casa, ti. Ma mi conviene. Ciao Tino, buonasera. andare. Questo c'è quel spagnolo e tu invece cazzo a Bundi, per gli amici. Ah, ecco. Avrebbe fatto a parlare di me, molto meno. Siamo 23,33 portata. E 3 euro solo ci prendiamo. No, ma 23,33, cosa vuol dire? Allora, 20 3 euro portata. 30 presa lì, 33 portata. 33 trentini, 1030, da 10 parlando, capito? Te l'ho detto, da 15 te l'ho detto, capito? La differenza. Viaggio compreso, va. Siamo a me, me la portano per 27 a casa. Numero, Massimiliano, dammi il numero. Viaggio Francesco. Dammi il numero, mandalo. Ah, tu, non intendi, no? Io sono a chi paga di meno, vero? A chi sperpera di più. Ma lei che te la dato di Piazza San Francesco? Dammi il numero, ma se lo può fare. Attento, bubu, andiamo, andiamo. Io volevo far guadagnare un amico, invece no, infatti l'amico solitamente ti dà la battosta. E a me, 8 ore in più già si possono dare, dai, un amico. Buonasera. Numero. Alla è più caro di noi. Come più caro di voi? Se voi la bombola da 15 la date a 30 e questo la da 27 non è di meno, è meno caro? Con la resende ha giusto chi pala è più caro di noi. Regà, pala Ruggie. Ma chi, Giuseppe? Sì, Giuseppe è un pochettino più caro, ma siamo nel limite. Allora Giuseppe, adesso lo chiamo. Se mi fa il prezzo di buco, le gomme della moto. Ah, oh, good no, c'è Giuseppe. Sì, ah, ah, ah. Sì, ho vissuto 35 anni lì, a voglia che lo so, ma paro sempre però me. Io ho 50 anni da poco, quindi. Ciao Tino, è di nuovo. Buona. Scappa, io purtroppo ho 35 anni, cioè da quando ero bambino fino a un paio di mesi fa. Vabbè, sono venuto qua. Ah, vabbè, dai. Comunque, Massimiliano, non stavo scherzando. Ma sì, a me mi fa quel prezzo perché, in poche parole, lui abita un po' più giù di casa. Per intenderci, di fronte a quello che c'è le antenne grandi, con la stradina lì. Capito, magari mi fa quel prezzo perché scendendo me la lascia, mi capito? Però posso chiedere quanto ti fa per portarla lì. Eh sì, di passaggio, ho capito. Andare, andare. Vabbè, se no chiedo a Giuseppe, Giuseppe lo stesso della croce, la lascia mia sorella dove abitava prima lui, e prima la prendo io. Ma tenetemi una curiosità, se siete più informati di me, è possibile trasportare la bombola oppure no? No, assolutamente no. Per quel prezzo lì, Massimiliano, l'ho trovata anche a Caniga, però te la devi prendere e portatela a casa. Dove sta scritto che non me la posso trasportare? Prova a farti fermare con la bombola dentro la macchina, ti guardi. Sicuro, metti buone. Deve fare, c'è lo scontrino, l'ho presa, l'ho comprata, cosa mi devi fare? Non puoi. Che cazzo l'ha detto? Ma dove sta? Ma cosa ci dici dicendo? Questo non lo so se puoi o non puoi, però io sapevo di no, però non lo so, non sono sicuro, quindi metto le mani avanti. Non la puoi portare, Tino, che sono prodotti infiammabili, non le puoi portare. Ma cara dito, una bomba va presa, te la carica e te la porta, l'importante è che non deve superare i 8 di chili. Allora lì c'è un'altra cosa. Ma se ti pigli una bomba, la della carregheggi in macchina, non si dice da nessuno. Se ti pone solo la faccia in culo, ti si pone buone. Cosa sei di zende? C'è anche un tosse che non puoi portare dentro la macchina. Se tu ti prendi una bombola o due bombole e te le carichi, non si dice niente. Cosa stiamo dicendo? Aspettate, allora, forse ha ragione Antonio, perché forse è in base al peso e alla quantità di quanto le porti, eh? Non è in base al peso, perché nella macchina cosa entra in base al peso? La macchina c'è quanto puoi caricare, ma tu prodotti infiammabili nella macchina non li burburi. Scusa un attimino, cosa vuol dire prodotto infiammabile? Chi la benzina non è infiammabile, la macchina a gas non è infiammabile, cosa c'entra? Ma lasciamo perdere, cazzo. Dicendo tutti, quello il buono e vannuta, non lo so. L'importante è che non sei esagerato. Quando tu le fai l'impianto, se non ti pone così bombole dentro la macchina, quello non va bene, soltanto rogare. Ma se tu ti pigli una bombola attaccata, se la carricheggi nessuno ti può far nulla. C'è lo scontrino di cosa? Che l'hai portato? Non fanno niente. Guardate che non esagerete. Vabbè, adesso chiama Gigi, te lo dico, a Google. Prova a vedere, guarda. Guardate che non esagerete, da voi lo vuoi farmi. Quindi io fino a 35 quintali nella macchina le posso mettere così. Ho le balle. Scusa, il peso è quello. No, non le puoi portare così tante, non è così. C'è un tot che ne puoi portare. Cioè non è che tu pigli se ti bombole di trico di macchina, sì lo fai, lì ti scatta qualcosa, ma se tu ti pigli una bombola a 15, una bombola a 10, se te la buono in macchina, scontrinata e tutto, se te la buono a casa nessuno ti dice niente, perché viene il burretto a pigliarsi le bombole, mi danno è. Non è che... Non si può succedere, cioè. Quanto, ma voi quanto le potete a me? Voi ci avete l'autorizzazione, giusto? Sì. E quanto le potete caricare voi sulla moto a carrozzella o sul fiorino? Sulla strada, cioè, non mi ricordo adesso. Perché è un autocarro, capito? Devo fare il conto, non me lo ricordo. Se superi ci devi avere l'ADR. Se superi il carico, ma quella macchina non la supera, cioè una volta ce l'abbiamo superato, però lui cosa ha fatto per togliersi dai casini che ti ha dato la merce? Ha fatto due bolle, ha fatto, e lui se ne toglie la responsabilità, capito? Perché se no devi avere la patente, cioè non la deve avere la patente più la DR, se superi il carico, ma quelle macchine di solito non le superano mai, cioè non le superiamo mai il carico, capito? Non mi ricordo adesso, devo fare il conto. Danni, Rombroffer, riprendi, tu cosa dici? Vabbè, io ero rimasto a qualche anno fa, comunque io le bombole da 10, una singola bombola con scontrino tempo addietro l'ho sempre trasportata, quindi non... Poi è chiaro che se si eccede, poi non so se le normative sono cambiate, quindi non posso essere sicuro, dai. Ma ho già, anche io tirato tempi addietro, andavo a San Giorgio da Basso, mi prendevo la bombola con lo scontrino, me la mettevo in macchina e me la portavo a casa, cosa vuol dire? Ma io so che tu in macchina non le puoi proprio mettere in bombola, puoi, non lo so. Sì, così dicono. Ognuno ti dà qua il suo mulino, va a travagliare a noi. Però in effetti non è così. Ma sai i chili che facciamo dentro quel deposito? Facciamo più chili lì che portate a casa, non è ancora impressionante. E tutti vengono a pigliarci di me. Dino, l'hai chiesto a Google? Sì, l'ho chiesto, dice che non è consigliabile, ma non è a norma, cioè non stiamo dicendo cosa c'è a norma di legge, hai capito? Ma è così, come ti dico io. Però... Da. È un casino, È un casino veramente io. C'è un limite, non è che tu pigli la macchina delle bombole e poni le bombole a macchine, oltre che superi il peso della massa della macchina. Poi se c'è una macchina che va oltre quel peso, adesso io le masse non le adesso sono chiamo a Capimanno, c'è da fare più gatto di quit. Non è consigliato. Se superi quel tot di peso devi avere la DR, devi avere per trasportare le bombole. Devi avere la patente B più la DR. Perché ci sono macchine che per esempio mettono 10 quintali di. Possono avere 10 quintali. Ciao, però tu 10 non le puoi trasportare. Devi avere la patente B più la DR, la patente A. Mi sembri molto falcone quando parli. Vabbè ragazzi, ne approfitto che ormai che vado a cenare, poi se coincide, se ne avete voluto di chiacchierare, beh, se no ci sentiamo le prossime. Dai, rilancio il mic a Massimiliano, aspetta i saluti e poi vado via. Ehi, hey, Artino, sì, anche io me ne scendo giù a cenare, che mi ha chiamato mia moglie adesso. Ci sentiamo, dai, ciao Tino, Luca, l'altro Luca che se n'è andato. Bombolo e Gianni Rubroffetta, avanti Rubroffetta, anche io chiuso, ciao Tino. Eia, dai, vi seguo a ruota, salutoni a tutta la trippa, Tino Musco, Caterpillar e tutti gli altri, dai. Un salutone, grazie del QSO e ci sentiamo alle prossime, dai. Buona serata e buona carica a chi la sta facendo o chi la dovrà fare, dai. A Sibiri, come dicono in Callonia. Ciao ciao. Ciao Gianni, ciao, scusa, provocato, ho salutato così, in fretta e in furia, fate sentire più spesso, dai. Ciao, sto andando. Zappa, ciao ciao a tutti. E allora, cosa volete che vi dica? Pure io chiudo se non c'è più nessuno. Anni, ma tu ci sei? Io sto per spegnere, dimmi a tu. Cappa, allora vi saluto tutti, buonanotte a tutti in circolare. Siccome ti gioco il raccomoccio, gioco tutta cantaradì. Quando ne torrende, allora piglio mi si gonfa, che ciò cappette. Oggi mi hanno grebato, ho già 3-4 di che mi hanno grebato. Bene, bene, dai, intanto buonanotte, alla prossima, dai, buona serata, anche a tutti gli ascoltoni, ci si sente prossimamente, ciao ciao. Ciao ciao, buonanotte, ciao ciao. Ma com'è che oggi è andata bene sui quiz di scuola guida? 4-2-4, promosso. Vai così. Bene, bene, dai, salutoni, ci sentiamo prossimamente. Ok, ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao, buonanotte a tutti.